Elog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Care italiane, cari italiani, caro Giova. È con viva e vibrante soddisfazione che il Presidente della Repubblica vi comunica che oggi si è tenuta la prima riunione coi saggi da me nominati, che è stata fruttuosa e che la prima cosa che mi hanno chiesto è stata: c'è mica un'uscita di servizio qui, se possibile, sul retro? E io ci ho risposto: e se ci fosse stata un'uscita sul retro, secondo voi io stavo ancora a casa? Sì, oggi ho anticipato, mi dispiace per chi ascolta e è preso in questo momento dal Fanta Quirinale, leggo gli sms che stanno arrivando, chi vuole Totti, chi vuole il Mago Forrest, chi vuole Paolo Conte, Umberto Eco, Celentano, Benigni, continuate a chiamare 800240024, chi vorreste, chi ambireste ad essere nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Abbiamo appena lasciato alle spalle un profondo, pregnante sentito cerimoniale, sì, perché ancora probabilmente nel declassamento generale di austerità che hanno avuto le varie cariche dello Stato, i ruoli istituzionali, ancora ciò che sta al sommo del Quirinale ha questo aspetto di quasi regalità. I corazzieri stanno sfilando nella piazza vuota, se ne sono già andati tutti, sì, perché adesso anche la signora Clio starà facendo il soffritto buttando giù gli spaghetti, perché leggo la notizia: l'ex presidente Napolitano è rientrato a casa, il quartiere Monti è a un tiro di schioppo dal Quirinale, lo hanno portato in macchina perché è scoscesa piena di San Pietrini quella strada, ma sarà già lì seduto a tavola, dice: ponta la pasta, butta giù l'acqua, bolle l'acqua, butta giù gli spaghetti. Ecco, questa è la cronaca da fare in questo momento. Ma cosa ci rimane? Ci rimane quest'aura di qualcosa di regale che ci siamo lasciati alle spalle. Poi ricomincerà dopo la kermesse complicata istituzionale il rito di insediamento, sì, perché Napolitano non ce lo possono mettere più, questo è poco ma sicuro, qualcuno dovranno inventarsi. Potete dare dei suggerimenti chiamando l'800240024. Cosa vi è rimasta voi di questa ultima fiammata di regale austerità istituzionale? Il presidente che esce da una specie di cartone da pizza color azzurrino con dentro le onorificenze al capo dei corazzieri. Ancora girano questi corazzieri con la loro corazza, una corazza di latta contro cosa? I colpi di Kalashnikov che ci arriveranno prima o poi da qualche parte? No, serve soltanto perché fa parte comunque di un apparato cerimoniale che deve esserci, perché ancora, diciamo, la prima carica dello Stato sta in una specie di ex reggia, è circondato comunque da qualcosa che nessun'altra carica dello Stato mantiene. Ecco, forse per questo ancora sul Presidente della Repubblica, almeno così dicono gli indicatori statistici, c'è un barlume di attenzione e quasi di senso di, non dico riverenza, ma di rispetto. Avete sentito, i bambini, obbligati dalla loro insegnante, hanno fatto il coretto con l'inno nazionale, non potevano fare altrimenti. Mi viene a pensare in questo momento quello che sarebbe stato l'argomento di Melogo di oggi, che riprenderò naturalmente fra qualche istante: un altro bambino che non fa i coretti con l'inno nazionale, con la maestra dietro, dice canta, bravo, canta se no ti tiro le orecchie. Un bambino molto vestito da fighetto, un bel maglioncino nero con la zip molto alla moda, con i pantaloni mimetici uguali a quelli che portano i miei figli, mi chiedono di acquistarli, che sono molti alla moda, con dei capelli bei lunghi, con shampoo e balsamo per farli rendere ancora più fluttuanti dal vento del deserto, con un orologio bellissimo, strutturato, fighetto, military style, come va molto di moda, con una bella pistola in mano, talmente bella da sembrare fatta da Fanta Ingegneria Balistica, che dopo che un signore, un perfetto hipster, ha lanciato comunque la sua sentenza di morte, spara in testa due signori inginocchiati. E c'è un rallentì, un fermo immagine, uno stacco emotivo sulla faccia dei condannati che stanno per morire, sulla faccia del bambino, altri bambini che stanno alle nostre spalle, stanno col fiato sul nostro collo. Ma questa mattina voglio parlare invece, cominciando a iniziare, aspettando le vostre chiamate, che chiamerete all'800240024, continuando ancora per un po' a dare la vostra impressione di questa grande idea cerimoniale che sta attorno alla uscita del Presidente della Repubblica. Vorrei capire esattamente quali sono i barlumi di antico cerimoniale che ancora ispirano queste cerimonie. C'è un signore addirittura in polpe bianche, vestito quasi da paggio settecentesco, con delle braghe rosso scarlatto, una bella marzina che stava lì in piedi davanti al cerimoniale, una signora con i capelli raccolti perfetti, sembrava Evita Perón, che ha baciato il Presidente, tutta una fila di baci al Presidente. Ecco, cosa c'è dietro? C'è un protocollo preciso? C'è qualcosa di scritto? C'è qualcosa che ci ereditiamo chissà da quale notte dei tempi? Ecco, per sapere qualcosa di più ho chiamato Damiano Iannizzotto. Damiano Iannizzotto, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Il dottor Iannizzotto è un esperto di cerimoniale, molto di più, un appassionato di cerimoniale. In questo momento, Damiano, a cosa abbiamo assistito? A qualcosa che affonda le radici nella notte dei tempi, qualcosa è stato strutturato, di cui il Presidente, diciamo, è necessariamente l'elemento e il soggetto che deve passare attraverso questa sorta di antico rituale quando lascia le sue consegne? Sì, certamente, anzi paradossalmente molti manuali di cerimoniale dicono che l'Italia in realtà è un paese quasi senza cerimoniali, nel senso che il nostro non è un paese che per la sua storia repubblicana tutto sommato recente ha avuto modo di sviluppare un cerimoniale particolarmente pregnante nella vita della Repubblica. Quindi però, diciamo, siamo accusati di essere troppo poco formali, a me mi sembrava formalissima questa uscita. Sì. Però esistono in realtà dei momenti salienti della vita dello Stato, della vita della Repubblica, che in realtà hanno un loro cerimoniale molto bello, molto importante, che ha la funzione proprio di esprimere all'esterno quello che in qualche modo sta avvenendo. Ma chi se l'ha inventato il cerimoniale repubblicano? Chi se l'ha inventato? Insomma, non se l'ha inventato nessuno. Il cerimoniale altro non è se non un modo per esprimere in qualche modo visivamente quei significati istituzionali e giuridici che stanno alla base di quello che sta accadendo. Per cui in realtà, ecco, il momento di stamattina poi deve essere sicuramente visto in maniera complementare rispetto a quello che accadrà, speriamo, tra pochi giorni e quindi con l'arrivo del nuovo Presidente. Quindi voi esperti di cerimoniale, diciamo, vi sfregate le mani per quello che sarà il momento più celebrativo e più importante dal punto di vista proprio dell'osservatore del cerimoniale, è l'insediamento del Presidente, una sorta di investitura di re quasi. Sicuramente, sì, è quello il momento dell'insediamento del nuovo capo dello Stato, sicuramente è uno dei momenti più alti, più importanti della vita dello Stato. Richiamo un attimo l'attenzione del pubblico, 800240024, come? Era gremita Piazza del Quirinale fino a poco tempo fa e nessuna delle persone che ascolta ha qualcosa da dire, da aggiungere su quello che è accaduto, sul momento epico dell'abbandono del Presidente della Repubblica, su quello che potrà accadere. Nessuno ha un'idea, nessuno ha una previsione, o qualcuno rispetto a quello che stiamo dicendo con il dottor Iannizzotto pensa che in realtà il cerimoniale è qualcosa da abbandonare, questo aspetto formale che ormai non corrisponde più a nessuna investitura divina, perché il cerimoniale nasce perché la regalità era qualcosa che veniva da un principio superiore. Oggi che il Presidente della Repubblica è frutto comunque di una contrattazione politica, forse non ha il senso. Ecco Emanuele da Roma. Emanuele, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, salute. Sì. Dunque, io il cerimoniale dalla piazza non l'ho visto. Basta accendere la televisione, non è che... Certo, no, io ho seguito... Allora gli dico, stanno uscendo due signori lungo un corridoio con un purpureo telo, e la rete è quello che è accaduto prima, con delle giacche rosse, tutti i corazzieri con i loro guanti che arrivano quasi all'ascella, con i piumacci in testa, stanno aspettare che esce il Presidente. Questo momento clou dal punto di vista del cerimoniale. Lei che ha visto? Sì, io, che ho visto, io ho guardato invece un po' su internet, sì, perché ho la rete davanti agli occhi e mi sono fatto una piccola statistica anche nei giorni precedenti, uh-huh, delle reazioni di internet, per esempio alle notizie sull'ANSA, dove è possibile commentare sotto. E avevo visto una differenza di 95% fra commenti positivi e commenti negativi, per cui mi sembra un po' questa cerimonia, mi sembra un po' come le scenografie di cartongesso della Roma di Mussolini, per non far vedere che dietro c'erano gli edifici demoliti. Quindi c'ho un po' l'impressione che ho è questa, perché poi il polso vero della gente e i commenti nel bar o in internet, che è un bar virtuale, sono un po' diversi dai bambini che cantano viva viva il Presidente. Questa è l'impressione che ho avuto io. Vediamo Damiano Iannizzotto. Damiano Iannizzotto è rigidamente un esperto in cerimoniale, non è che entra in merito. Però l'impressione, visto che oggi diciamo anche le grandi cerimonie che una volta erano riservate soltanto alle persone che le vivevano di persona, che scendevano in piazza, che avevano modo di vedere e osservare l'evento, è trasferibile velocemente a tutti. Tutti hanno visto la televisione, tutti stanno vedendo il momento, tutti stanno mandando facezie anche ai nostri sms, enumerando nel Fanta Presidenti i nomi più assurdi, non rendendosi conto poi in realtà è un momento veramente, seriamente, concretamente delicato per il paese. Non è indifferente il fatto quale sarà il nuovo Presidente della Repubblica. Damiano Iannizzotto, ma il cerimoniale invece ha una funzione per autocertificare, automantenere un'istituzione, un potere, o anche un'istituzione, anche la funzione di colpire comunque il passante, il cittadino, il suddito nel senso di un cerimoniale con radici regali, e quindi far vedere che dietro quell'investitura comunque c'è qualcosa, un principio superiore? Ma è proprio questa la funzione del cerimoniale, assolutamente non un atteggiamento autoreferenziale, ma piuttosto la possibilità di esprimere agli altri quello che sta succedendo. È un'immagine sicuramente importantissima. Le persone che citavi prima e che si trovano a Piazza del Quirinale, e tutti noi passando dal Quirinale da questa mattina avremo modo di vedere che sul Torrino non garrisce più lo stendardo presidenziale, neanche sulla facciata. Questo sarà per tutti un momento di horror vacui, non vedono più la bandierina azzurra del presidente, cioè che sarà successo. Perché lo quando ritornerà presidenziale non c'è. E quando tornerà su lo stendardo presidenziale? Quando fanno il nuovo appunto, presidente? Durante la cerimonia esattamente speculare a quella di oggi, quindi quella dell'insediamento. Senti, ma non è come il Papa, che ogni Papa c'ha il suo stemma, il Presidente quella bandiera, quella che c'era quello assolutamente. Prima. Assolutamente, sì, assolutamente. Ma quella vecchia la bruciano, la distruggono, è sempre la stessa che ritirano su? Non lo so, immagino che sia sempre la stessa. No, io pensavo, sarebbe giusto e carino che se la portasse a casa ogni Presidente quella vecchia, ne mettono una nuova. Ma insomma, bisognerebbe chiedere alle fonti interne del Quirinale, sicuramente... la presidenza non è in vacazio, nel senso che la presidenza come istituzione presiede la vita dello Stato, però il presidente che è pro tempore, come dire, la presiede, in questo momento non c'è, e quindi automaticamente neanche lo stendardo che lo rappresenta è in qualche modo, quindi quell'asta svettante e priva di vessillo deve farci riflettere che è un momento istituzionalmente importante. Giacomo. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo intervenire semplicemente dicendo questa cosa. Io credo che questi cerimoniali, così come l'investitura a un nuovo pontefice, facciano parte di una vita e di una regolarità, di una normalità della vita di un paese. Abbiamo assistito in questi giorni fatti bruttissimi successi in Francia. Penso che questo sia la vita normale, che dia il fascino, la storia e l'importanza alle cariche di un paese. Cioè il cerimoniale come rito ci certifica che il tempo che passa è il tempo della regolarità, non il tempo dell'eccesso. Non è il caos, ma è il cosmos nel quale noi siamo inseriti. Ecco, questo la fa pensare. Sì, la vedo in questo modo. Quindi sì, la rassicura, quindi ha ragione Damiano Iannizzotto che è molto importante il cerimoniale, quello su cui io sono portato per natura fescennina a sorridere, a ironizzare. In realtà è importante per dare il senso della sicurezza, della stabilità, dell'istituzione. Comunque ho finito, fra un po' riprendiamo dopo il meto, il melog, quello vero, quello di cui parliamo, di cose che ci stanno molto a cuore. Melog, cronache meridiane. Spalle, c'è una lunga fila all'edicola, i chioschi sono stati presi proprio d'assalto ed è già finito Charlie Hebdo, questo numero storico, questo numero drammatico che è stato tirato come copie di 3 milioni di copie, tradotto in 5 lingue tra cui anche l'arabo, e sarà presente in Turchia. Ovviamente le reazioni sono già state abbastanza violente, le comunità musulmane tuonano alla inammissibile provocazione di questo giornale per l'ennesima volta, e anche la comunità francese, che rappresenta musulmana, che rappresenta 3,5 milioni di musulmani qui in Francia, non ha gradito assolutamente le vignette. Io ce l'ho in mano qui davanti a voi, davanti al microfono, lo Charlie Hebdo tanto atteso, tirato in 3 milioni di copie, estinto anche in Italia. Era inserto del Fatto Quotidiano. Il direttore Padellaro questa mattina scrive: abbiamo chiesto alla redazione, possiamo metterlo come panino dentro il nostro giornale? Sì, sì, tanto non ce l'ha chiesto nessun altro giornale, e loro l'hanno messo. Questa mattina già non si trovava più in prima mattina. L'ho sfogliato, l'ho tra le mani, è un bel segnale, mi piace, divertente, fa sorridere. Qual è il passo più geniale, secondo me? Poi mi confronterò con altri ospiti. Beh, la vignetta è la vignetta firmata Lutz, dove ci sono i due terroristi in perfetto assetto di guerra, con le loro tute nere, con i passamontagni, col Kalashnikov al fianco, con la luce, perché sono morti, sono stati uccisi e stanno volando verso il cielo. Da una nuvoletta viene fuori una sorta di gambe, braccia, bottiglie di champagne. Loro si domandano: ma dove sono le 70 vergini? E dal nuvoletta gli risponde: sono qui che stanno facendo festa insieme alla redazione di Charlie Hebdo, brutti scemi. E quindi il senso di tutta questa cosa, che poi in fondo il sacrificarsi, l'essere martiri per andarsi a fare un mucchio di 70 vergini, che è anche una cosa piuttosto impegnativa, faticosa, noiosa, prima di arrivare a uno standard di piacevolezza bisognerà faticare parecchio, ma per loro questo è fondamentale. In fondo è stato vanificato, perché le 70 vergini festeggiano con gli scanzonati ragazzacci che sono stati uccisi di Charlie Hebdo. Vale la pena far massacrare una redazione per poi avere una tiratura e un successo di vendita così estremo? Assolutamente no. Ma oggi vorrei riflettere e continuare a parlare, visto che abbiamo aperto mandando la satira di Crozza sul Presidente della Repubblica appena uscito. Abbiamo interrotto in qualche maniera la rigidezza e l'aspetto anche agido, anche formale, anche molto ipocrita di questo cerimoniale, perché si diceva la verità, tutti non vedevano l'ora che se ne andasse e che cambiasse qualcosa, quindi le lacrime, i pianti, la commozione. Quale commozione? Una persona che ha avuto comunque un iter politico di smisurata fortuna, se ne va con comunque al suo attivo una grande visibilità, una grande presenza, un aver inciso fortemente nella vita del paese, ci si può anche scherzare sopra, si può andare oltre quel rigido cerimoniale che ancora attribuisce alla prima carica dello Stato una quasi investitura divina. Vive in una reggia, ha intorno dei corazzieri con vestiti da soldatini di piombo del secolo scorso, ancora dei palafrenieri in polpe settecentesche, però evidentemente qualcosa di diverso è quello che trapella comunque dal sentire generale. Non leggo i messaggi che mi stanno arrivando. Io questa mattina vorrei parlare però esattamente ancora di quello che è il fenomeno di una contrapposizione forte, potente, di punti di vista. Non è che da una parte ci sono quelli che dicono je suis Charlie, dall'altra parte tutti cattivi. No, ma questo è stato un momento di riflessione, un momento anche di capacità di far capire che l'attualità, la contemporaneità, la complessità può essere spiegata e in qualche maniera dipanata attraverso mezzi espressivi che non sono quelli classici del classico giornalismo, della classica saggistica e delle opinioni illustri. Per aiutarmi in questo cammino ho al telefono Emanuele Di Giorgio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Emanuele Di Giorgio è il direttore editoriale della casa editrice Tunuè. È una casa editrice specializzata, con un suo specifico in Italia. È specializzata innanzitutto, anche ha pubblicato molti fumetti, anche molti fumetti d'autore, dedicati almeno nel nostro paese a un pubblico molto specifico, ma soprattutto si è impegnata moltissimo in una forma di narrativa della contemporaneità che passa attraverso la graphic novel, che è qualcosa di diverso, è qualcosa che magari molti guardano con molto atteggiamento di sospetto, cioè, ma come, un fumetto mi può raccontare la realtà? Ma solo per far capire, Emanuele, cerchiamo di far capire come sta cambiando anche la capacità di esprimersi attraverso dei media che nella loro destinazione d'uso più corrente sono soltanto delle cose per far giocare ragazzi, bambini o degli adulti che non diventano mai adulti. Ma guarda, ieri un caso, stavo chiacchierando con una persona, ha detto che faccio l'editore di che cosa? fumetti, graphic novel, sì, allora si chiedeva, vabbè, ma ogni quanto esce? Cioè, immaginava che ci dovesse essere una serialità alla base del fumetto e non delle storie, quindi delle storie possono essere raccontate in qualsiasi come momento. Come Topolino che usciva il sabato, ecco, una cosa del genere. Certo, sì, immaginavo. O Corriere dei Piccoli la domenica. Me l'ha chiesto 2 o 3 volte, ma è quindicinale allora, visto che uscite con 20 titoli l'anno. Adesso no, usciamo con 20 titoli l'anno quando ci sono delle cose che devono uscire, insomma, poi alcune di un tipo, alcune di un altro. E questa cosa qui dà il senso di spiazzamento delle persone rispetto al fumetto, rispetto a questi mezzi di comunicazione e media che possono però raccontare tutto, raccontare in maniera talmente forte che addirittura un simbolo, un obiettivo militare considerato diventa una redazione di una rivista storica francese. Tu l'hai sfogliato questa mattina il numero di Charlie Hebdo? Con molta difficoltà, nel senso che ho dovuto girare diverse edicole prima di trovarlo. All'inizio si parla di 1 milione, poi 3 milioni, ma force oggi siamo tutti Charlie e ce ne sarebbero volute 50 milioni forse di copie. Ecco, quello che si vede è diciamo la trasversalità dell'attacco satirico, e non è fermato soltanto al mondo musulmano, ne avranno, oggi se lo vedono anche i cattolici per loro, c'è una delle vignette più divertenti, difficilmente raccontabile alla radio, ma mi sforzerò, c'è il Papa che dà la comunione alle donne divorziate, sono tutte queste signore in fila con le bocche spalancate, con la lingua di fuori, un atteggiamento non è certo proprio mistico, e gli dice mio Dio perdonami che devo darti in bocca a queste mangiatrici di non certo, cioè praticamente gli dà un appellativo non proprio divertente. C'è un'altra vignetta molto particolare dove c'è Yalta al Vaticano, quindi dove le varie religioni si dividono il mondo. Certo, cioè c'è il mufti o il capo musulmano, il rabbino e il papa che si dividono il mondo. Io mi prendo la parte destra, mi prendo la parte sinistra, mi prendo questo, cioè una sorta di Yalta, di divisione di grandi potenze, ma divise per credo religioso, per grandi monoteismi. Ce n'è per tutti. E poi è bello il ricordo delle persone scomparse, che per loro sono ancora vive, che sono entrate in una sorta di Olimpo. In realtà non hanno. Polischi ieri diventa di nuovo duro. Finalmente. Sì, finalmente, ecco, che sotto la vestaglietta d'anima bella gli ritorna finalmente viva quella potenza virile che i suoi compagni gli hanno sempre imputato di non essere più all'altezza, perlomeno, delle vignette che disegnava di signorine Procaci. Poi dimmi, cos'altro ti ha colpito? Così diamo una lettura radiofonica di questo numero introvabile. Come hai detto te, la trasversalità è il fatto di essere laici, cioè questa donna prosperosa dal mondo del fumetto potrebbe essere una qualsiasi donna di Cramb che si vede girata quindi con le sue terga quasi in maniera lasciva e dove c'è laicità dal 1905, insomma. Ni Dieu ni Maître ci ha scritto. Nessun padrone. Nessun Dio, nessun padrone, con il perizoma che esce fuori. Diciamo i punti di contatto sono sempre questi: la dissacrazione che non è esercizio di sadica blasfemia, come molte mi stanno scrivendo, non è ammessa la blasfemia, non esiste, non deve esistere. È un po' diverso il concetto. Ieri ho sentito alla radio Sgarbi che diceva a mio collega: bestemmi allora, sei coraggio. Ho detto: no, non bestemmi, per me è diverso, non ho questo bisogno, non succede, non fa ridere nessuno, fra l'altro. Può far ridere il Papa che dà la comunione alle signore con la bocca pronta a prendere il gelato, come dicevi te, ma questo può far sorridere, è dissacratorio, è cattivo, è crudele, ma ci possiamo fare una risata. La pura bestemmia è un segno di rozzaggine, basta. Bestemmia il contadino perché poveraccio è almeno al tempo, mi ricordo io, è talmente condannato alla disgrazia del suo quotidiano che se la prende col Padre Eterno, ma è una grande preghiera. Ma la parte lo diceva quando i contadini toscani o umbri che si battono il petto, fucilano il santo perché il raccolto è andato male, lo affogano una pietra al collo, è la più grande dimostrazione di fede o di esistenza di un soprannaturale. Sì, infatti il payoff proprio della rivista è giornale irresponsabile, e questo dovrebbe dare il senso e anche la leggerezza di quello che viene detto, però come hai detto te oggi quella leggerezza dà il là a discussioni che in altri ambiti non si fanno proprio, e quindi non facendosi non è che non esistono, e quando vengono però affrontate trovano reazioni violente e forti. Sì, ecco, ho avuto un attimo un problema, sì. Non accendendosi a luce rossa, non so perché da una settimana non si accende a luce rossa in questo studio, nessuno cambia una lampadina, alla fine devo dire, non ho mai la percezione di quando sono in onda e quando non sono in onda. Sempre guardando gli esempi nazionali, adesso ve lo farò sentire fra un istante dopo che mi ho dato le informazioni del traffico, noi abbiamo tutta una serie di fumettisti, di operatori della satira, qualcuno ha preso le distanze, dice ma io non me la prendo con i musulmani perché non mi sento, non può essere imposto a nessuno. Di avere lo spessore dell'eroe, altri in realtà hanno preso posizioni, poi li sentiremo. Tu hai l'idea, visto che maneggi da molto tempo questa materia, di qualcosa che può essere assimilabile alle nostre latitudini a Hebdo? Io penso a Frigidaire, ieri ho preso in mano i vecchi numeri di Frigidaire, mi viene in mente questo. Ma io ho letto il primo numero di Frigidaire negli anni 90, il primo numero di Frigidaire è del 1980. Perché tu sei più giovane di me, certo, io lo vedevo invece. E negli anni 90 sembrava qualcosa di contemporaneissimo, e oggi forse lo sarebbe ancora, forse lo sarebbe ancora di più come spirito totem. Attualmente non c'è niente in Italia che possa minimamente avvicinarsi. Oddio, quella era una generazione che è stata sterminata più dall'eroina e dalla ricerca di vita dissoluta o di vita bruciata più che dalle pallottole dei terroristi, sì. Però anche loro in qualche maniera hanno segnato un tempo. Abbiamo qualche ascoltatore, velocemente Silvia, per dare l'idea che c'è qualcuno, poi riprendiamo fra un istante. Silvia. Sono io, ecco. Buongiorno. Sì. Niente, volevo fare questa riflessione. Nei tempi antichi il giullare di corte, che era come dire l'incaricato della satira locale, era colui che ricordava al principe o al re che sopra il suo potere temporale, quindi sopra i suoi sbagli, c'era il giudizio divino, no? Del dio di turno locale, diciamo. No? E adesso forse la satira non ha, giusto, siamo laici, siamo tutti, come dire, nel tempo terreno e tutto, questa cosa forse deve ritrovare il suo spazio. Lei dice una cosa molto, molto importante e molto sottile però, Silvia, una persona che veramente ha una dimensione della divinità serena, pacifica, ben vissuta e sedimentata, non dovrebbe arrabbiarsi per la satira, perché dovrebbe ricordargli in realtà che c'è qualcuno sopra di lui. Ha detto una cosa molto giusta: chi uccide, chi massacra, chi tappa la bocca a chi scherza e ironizza, in realtà bisognerebbe capire se ha veramente un senso profondo, vissuto e trascendente la divinità, o semplicemente ha bisogno di avere dei principi per togliere tutto ciò che per lui rappresenta complessità. È questo che voleva dire? Proprio questo, e forse anche che, come dire, abbiamo, una volta era tutto molto forse più semplice, le cose erano molto più, cioè fino a questo punto, cioè, come dire, il principe, dopodiché c'è Dio, no? Adesso, giustamente, senza dare un giudizio al tempo di oggi, queste cose devono essere un po' ridigerite forse, ecco. C'è una catena di deleghe molto difficile da individuare. Melog. Cronache meridiane. Charlie Hebdo in questo numero ha risposto con la satira, proprio quella profonda, con una satira allegra nella tragedia. Nella copertina c'è un Maometto con una lacrima che tiene il cartello Je suis Charlie, e sopra c'è scritto tutto è perdonato. Non è il perdono religioso, il perdono un po', è il lo sberleffo del perdono, è la pernacchia del perdono. Mi scrive il solito, questo era Vauro che commentava, uno dei vignettisti, che sì, però se l'è presa con i politici, se l'è presa sempre con le persone che alla fine non ti mandano a sparare sotto casa. Mi scrive l'ascoltatore, il solito furbone, mi dice guardi che Charlie ha rivendicato ufficialmente il diritto di blasfemia, si informi prima di commentare a casa. Valeriano, io parlo per me, a me mi capita ogni tanto di tirare giù qualche moccolo e qualche madonna, come suol dirsi, io vengo da terra umbra, dove queste cose accadono, accade nel privato della mia sfera amicale, non lo farei mai alla radio, perché mi dà fastidio, perché non associo la bestemmia a un gesto liberatorio, a un gesto che ha una sua valenza culturale. La vignetta sì, perché c'è un'articolazione, c'è uno studio, c'è un'espressione artistica. Bestemmiare sono capaci tutti, basta associare il nome di una divinità a qualcosa di deplorevole o di appartenente al regno animale, ecco fatta la bestemmia, sono capaci tutti. A fare una vignetta bisogna saperla fare, bisogna essere artisti, bisogna essere anche poeti in questo. Se qualcuno mi rappresenta poeticamente la bestemmia, posso anche prenderla in atto, prenderla in considerazione, osservarla come fenomeno, ma la pura bestemmia è un gesto da scaricatore, è un gesto che, nel quale posso cadere anch'io in un momento che mi cade un martello sul piede, magari, ecco, ma perché? Perché sono abituato da bambino a essere circondato da gente che questo faceva, non certo in famiglia. Don Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. È un prete lei? Sì. Vero, prete vero, sì. Sì, di solito. No, vero o spietato? Perché ci sono categorie... No, sono un prete in esercizio, sì. Diciamo così. E no, condivido con lei pienamente il discorso sulla bestemmia, a parte che... Cioè, lei non è che se la prende, lei non pensa che pianga la Madonnina o pianga Gesù Cristo, che c'è il Papa che dà la bestemmia alle signore con la bocca pronta per qualcosa che non è certo un gesto cristiano ammesso. Può usare la mia sensibilità, sì. Però credo che Dio non sale e non scende, né con le preghiere, ecco, né bravo, con le bestemmie. Questo, che non è che Dio si arrabbia per questo, si arrabbia per l'ingiustizia, evidentemente. Esatto, i peccati sono altri. No, però volevo sottolineare una cosa, che mi sembra che ci sia un po' di laicizzazione della bestemmia oggi, che nel senso che magari possiamo tollerare le bestemmie, le vignette satiriche sulla religione, però oggi forse la sensibilità moderna vuole che per esempio su certi argomenti non si possa fare satira. Cito per esempio, senza avere nulla in contrario, i gay, che possono essere sanzionati, per esempio se tu fai una barzelletta sui gay, mentre tutti gli altri sì, adesso con la legge sull'omofobia che si sta discutendo in Parlamento si potrebbe anche... Lei dice non si può scherzare, sì. Ma secondo me si può scherzare, guardi, sì. Le dico, permetto un attimo, reverendo. Ci sono tante barzellette che non si possono più raccontare. Aspetti, reverendo, c'è la penultima pagina di Charlie Hebdo, c'è una vignetta divertentissima, in cui dice le donne non hanno più bisogno di noi, due signori camminano per mano con le rispettive fidanzate che si baciano. La vignetta successiva leggono il giornale e le due donne si baciano, si fanno manina, piedino. Una vigilessa fa la multa a una donna e si bacia. Una coppia, due coppie a letto, gli uomini dormono e le donne si abbracciano. Un signore chiama la mamma, dice mamma presto, ti saluta anche mia moglie, ti bacia e ti abbraccia, la moglie è stesa nuda col letto con un'altra, dimostra il fatto che ormai, diciamo, la curiosità femminile... Questo in Francia. Non so in Italia se sarebbe lo stesso dopo che... Ma lei avrebbe una barzelletta, una barzetta secondo lei vietata? Guarda, le do questa possibilità, Don Giuseppe, visto che siamo aperti, dica una barzelletta sui gay che secondo lei non si può dire, la dice un prete, penso che nessuno la dannerà per questo, che sia corretta, che non siano cose che bambini non possono ascoltare, però magari sì, fa ridere. Che so, la posso dire? Sì, certo, la dica. Ma che so, un gay sull'autobus dice all'autista, per favore mi apre dietro. E l'autista che dice? Non so, è già in sé questa una battuta, no? È già troppo aperto, non c'è niente da aprire, cose del genere. Non lo so, visto che vado più oltre di lei. Vabbè. Non lo so, completamente. Ma non credo, io penso che nessuna persona intelligente si arrabbierebbe per questo. Infatti. Ci fa una risata, qua l'ha detta so, anche un però prete. Però voglio dire, a volte si tende di mettere il bavaglio su certi argomenti che possono sembrare frutto della civiltà, della tolleranza moderna. Ma questo è la parola di un prete, quindi la prendo con grande attenzione. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, niente, volevo dire che io per via di questi fumetti, questa satira, mi sento quasi un'intimidazione mafiosa, cioè che chiunque abbia in mano possa leggere queste cose si deve sentire minacciato. Io sinceramente sono stanco, perché già noi italiani ne abbiamo abbastanza della mafia e oltre a questo ci aggiunge anche il terrorismo. Lo sa come si controbatte questo? Oggi 3 sì. milioni di persone avranno in mano questo giornale, non perché... Diciamo, io avrei mai pensato alla vita di fare crociate per un giornale satirico, ma il fatto che ce ne sono 3 milioni in giro e oggi 3 milioni di persone usciranno col giornale sotto braccio. A me hanno già chiamato amici e amiche, tu che stai nella redazione ce n'hai una copia anche per me perché è già esaurito. Sarà un po' difficile sparare addosso a 3 milioni di persone. Il problema è non isolare comunque chi si fa portavoce di questo principio. Emanuele Di Giorgio, che ancora in linea, è, ricordo, direttore editoriale a casa editrice Tunuè, che è specializzata in graphic novel e ha sempre trattato questo argomento. Ci sono degli argomenti spiacevoli, crudi, che invece sono stati rappresentati con la graphic novel, cioè disegnando, dimostrando che non è che con il disegno non si possa, col disegno sequenziale, cioè col fumetto, non si possa non rappresentare realtà crude? Beh, uno dei casi storici è Maus, che racconta la Seconda Guerra Mondiale e racconta le torture e le problematiche collegate agli ebrei tramite il fumetto, ma ce ne sono tanti altri, c'è Jossel, c'è un bellissimo libro, Fax from Sarajevo, dove l'autore è un autore di fumetti che rimane intrappolato all'interno della guerra. Io l'ho regalato a mio figlio per Natale, fantastico. Ed è qualcosa di incredibile, quindi il fumetto è riuscito, riesce a raccontare storie molto crude, importanti, o anche storie, faccio l'esempio di Rughe che racconta l'Alzheimer o di altre. Ecco, voi avete pubblicato delle graphic novel sulla pedofilia, sull'Alzheimer, su temi abbastanza difficili. Sì. Quindi diciamo tutto raccontabile attraverso anche forme diverse. Sentiamo Federica, chiudo con lei, gli ultimi 30 secondi. Buongiorno, gli ultimi 30 secondi, volevo solo ricordare che la religione, oltre che un fenomeno trascendente, è anche un fenomeno psicologico, quindi quello che io faccio attraverso il mio pensiero, il mio sentimento religioso, lo faccio per esprimere. Lei scrive: la posizione religiosa di una persona rispecchia la personalità. Alludeva alla posizione del missionario. Anche questo, perché da qui si apre tutto un filone sulla satira e sulla libertà che permette alle persone di coltivare. L'importante è che qualcosa si apra, cara Federica. Ci sentiamo domani.